want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Soundcheck. Il suono della musica di Gegè Telesco. Buon pomeriggio da Gegè Telesforo e ancora tanti auguri a tutti voi in contatto con Radio 24 per questo quotidiano appuntamento con il Soundcheck, la nostra prova del suono. E fino al 6 di gennaio tantissima musica per appuntamenti speciali e oggi la puntata è dedicata al songbook americano con le grandi composizioni che hanno reso immortale il suono del jazz. Quindi diamo il via con il manifesto dello swing, It Don't Mean a Thing If You Ain't Got the Swing, brano scritto da Duke Ellington, che qui incontra la voce unica di Louis Armstrong. What good is melody? What good is music if it ain't possessing something sweet? Now it ain't the melody and it ain't the music. There's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Soundcheck, il suono della musica. I wear pajamas. You got pajamas. But we know we need each other so we better call the whole thing off. Let's call the whole thing off. Let's call the whole thing off. E Louis Armstrong con Let's Call the Whole Thing Off incontra Ella Fitzgerald per dar vita con la regina dello swing a due album immortali alla fine degli anni 50. Ella Fitzgerald ha cantato di tutto e ha cantato con i più grandi maestri del jazz e qui lo fa accompagnata dalla grande orchestra di Count Basie in un classico intitolato I'm Beginning to See the Light al Soundcheck di Radio 24. I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Soundcheck, il suono della musica. I won't die. E ancora il sound immortale della big band di Count Basie per la voce di The Voice in Person, Frank Sinatra, in un classico intitolato I Won't Dance. E Frank Sinatra chiude la prima parte del soundcheck di oggi con un classico del suo repertorio, The Lady is a Tramp. She gets too hungry for dinner at eight. She likes the theater and never comes late. She never bothers with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. Soundcheck, il suono della musica. Sweet baby, take me by the hand and I'll do anything you say. It's just got to be that way. Well, all right. All right. Okay. Okay. Well, all right. All right. Okay. Okay. Well, all right. All right. Okay. Okay. You win. E in questo appuntamento dedicato al grande songbook americano non poteva mancare un'altra grandissima voce, quella di Tony Bennett, che non ha ottenuto il successo di Frank Sinatra ma è ancora in attività e continua a fare concerti alla sua bella età in giro per il mondo, continua a registrare grandissimi dischi duettando con alcuni fra i più quotati cantanti di jazz e non solo, e qui lo ha fatto con Diana Krall in All Right, Ok, You Win. Diana Krall ancora al soundcheck di Radio 24 con un classico intitolato I Can Give You Anything But Love. I can't give you anything but love, baby. That's the one thing I've got plenty of, baby. Dreaming a while, scheming a while, you're sure to find happiness, and I guess all those things you always pine for. Gee, it's nice to see you looking swell, baby. Diamond bracelets, Woolworths doesn't sell, baby. Until that lucky day, you know darn well, well, baby, I can't give you anything but love. Soundcheck. Check, check, one, two. Il suono della musica. All I did was wonder how your arms would be, and it happened to me. E in questa versione di It Could Happen to You, Chet Baker abbandona la sua tromba per sfoggiare la bellezza della sua vocalità. Considerato uno dei migliori crooner di tutti i tempi, Chet Baker cantava così come suonava la sua tromba. E da Chet Baker a un altro favoloso musicista, il chitarrista George Benson, eccellente cantante, formidabile improvvisatore vocale, in un altro classico intitolato On the Green Dolphin Street. George Benson al soundcheck di Radio 24. One lovely day, love came planning to stay. Green Dolphin Street supplies the setting, the setting for nights beyond forgetting. And through these moments of memories live in my heart. When I recall the love I found on, I could kiss the ground on Green Dolphin Street. Soundcheck. Check, check, one, two. Il suono della musica. Can't you see I? Dal repertorio di Bessie Smith, la voce del blues, quella di Dinah Washington in Backwater Blues qui al soundcheck di Radio 24. Dinah Washington, donna bellissima, affascinante, ha avuto tanti uomini, li ha anche lasciati tutti, donna ricchissima che nelle sue band richiedeva la partecipazione dei migliori musicisti del suo periodo, e fra questi anche Oscar Peterson, che qui ascoltiamo in un classico scritto da Harry Mancini per la colonna sonora del film The Days of Wine and Roses. Soundcheck. Check, check, one, two. Il suono della musica. That's a huge, yeah, sure, but the only blue that we know is indigo. A song of love. Yeah, a song of love. And love. Yeah, and love alone. We're singing our song. We're singing in the mellowest old tone. We're with a feeling of our own. Oh yeah. Un'altra composizione di Duke Ellington in a mellow tone, affidata al trio John Hendricks, Dave Lambert e Ross, musicisti, formidabili cantanti che hanno segnato un'epoca con la loro vocalità. John Hendricks, l'inventore del vocalist, e qui arriva con un classico di Bruno Martino, In Summer. Questa è la versione inglese di John Hendricks di Estate. In Summer I miss you more than any other season. My heart has lost all thought of rhyme or reason. Without you it's like winter in my heart. In summer a memory of things we did together. Soundcheck, il suono della musica. Even guys with two left feet come out okay if the girl is sweet. If by chance their cheeks should meet while dancing, proving that the best things happen while you dance. The best things happen while you dance. The best things happen while you're dancing. Le cose migliori succedono quando danzi. Ce lo canta Kurt Elling qui al soundcheck di Radio 24. Uno dei campioni della vocalità contemporanea del jazz, ha già vinto di tutto, oggi uno dei cantanti più quotati. E sicuramente fra i grandi maestri che hanno contribuito alla sua formazione c'è Nat King Cole, che arriva al soundcheck di Radio 24 in questo appuntamento dedicato al grande songbook americano con un classico del suo repertorio. Forse la canzone più famosa, Unforgettable. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Soundcheck. Check, check, one, two. Il suono della musica. But it sounds like a lie. Oh, straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa. Up and Fly Right, brano scritto da Nat King Cole per il suo trio, qui però affidato alla voce di Diane Reeves. Grazie a tutti per essere stati in compagnia del soundcheck della prova del suono di Radio 24. Noi torneremo con tantissima musica anche domani, con questi appuntamenti speciali fino al 6 di gennaio. Ma abbiamo ancora un po' di tempo a disposizione per chiudere in bellezza At Last, sì, il successo di Etta James, qui però per la voce inimitabile di Johnny Mitchell, supportata dal grande organico di Vincent Mendoza con la sua orchestra sinfonica. Buon pomeriggio a tutti, buona giornata e ancora auguri di cuore da Gege Telespo. At last, my love has come alone. My lonely days are over. Life is like a lovely song. Oh, at last. Soundcheck. Il suono della musica.